perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Fiamme nella baraccopoli di Rignano, nel Foggiano, durante lo sgombero, morti due immigrati del Mali. Si ipotizza anche l'incendio doloso. Inchiesta Consip, questo pomeriggio verrà sentito Tiziano Renzi, stamattina tocca a Russo, mentre arriva in aula la mozione di sfiducia per Lotti. PIL in crescita dello 0,2% nel quarto trimestre del 2016, crolla l'agricoltura, sale la competitività, dice l'Istat, ma si sono perse 200.000 imprese tra il 2010 e il 2014. Torna il morbillo, due casi in un ospedale in Toscana, mentre in Piemonte sono decuplicati rispetto ad un anno fa, pesa il calo delle vaccinazioni. Si riaccende la battaglia delle console da videogiochi, oggi arriva nei negozi Nintendo Switch e per tutta la giornata Sony vende PlayStation a 200 euro. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere, e c'è la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, dove tra l'altro ve l'ho chiesto poco fa a chi era in diretta sulla nostra pagina Facebook, beh, vogliamo ricominciare con qualche live, vederci anche in diretta, magari anche durante la trasmissione, se volete rispondete. In apertura, l'incendio nel cosiddetto ghetto di Rignano. Quando intorno all'una di notte si è sviluppato il rogo che in pochi minuti ha avvolto numerose baracche, erano già presenti vigili del fuoco, carabinieri e agenti di polizia che stavano presidiando l'area che dal 1 marzo deve essere sgomberata. Per due dei migranti che si erano rifiutati di lasciare la struttura, però non c'è stato scampo. Si tratta di due cittadini del Mali. I vigili del fuoco non escludono il dolo, ma la causa potrebbe anche essere imputabile ad un incidente. Due giorni fa era cominciato lo sgombero del ghetto da parte delle forze dell'ordine disposto dalla DDA di Bari per presunte infiltrazioni della criminalità. Nonostante l'incendio, molti migranti però sono ancora lì, denuncia Santo Mangia dell'USB San Severo. Ci sono ancora un grosso numero di lavoratori migranti, cioè non è stato sgombrato il ghetto, anche perché effettivamente non sapevano nemmeno dove metterli tutti quelli che c'erano. Le due strutture che avevano individuato a San Severo erano già stracolme, tra l'altro non vogliono nemmeno andarcela. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo adesso all'inchiesta Consip, gli aggiornamenti di oggi. A Firenze quello di Carlo Russo, a Roma quello di Tiziano Renzi. Giornata di interrogatori incrociati nell'inchiesta Consip. Prima i PM partenopei e romani ascoltano l'imprenditore toscano vicino al giglio magico dell'ex premier. Poi tocca al padre di Matteo Renzi, Tiziano, indagato per traffico di influenze, aver cioè fatto da mediatore all'interno di un patto corruttivo. Per i PM Russo cioè sarebbe stato usato da Alfredo Romeo, l'imprenditore arrestato mercoledì, come tramite per arrivare a Tiziano Renzi e quindi, per dirla con le sue parole, al più alto livello istituzionale. Tiziano Renzi è stato il padrino del figlio di Russo, ma mai ho preso soldi, si difende. Perché il sospetto è proprio questo, che possa esserci stato un pagamento anche per lui, che fosse cioè lui il dottore di cui in un'intercettazione con Italo Bocchino Romeo si chiedeva se fosse soddisfatto. Oltre al sospetto di un pagamento, Tiziano Renzi dovrà chiarire anche le accuse di pressioni per intervenire su una gara denunciate dall'amministratore delegato di Consip. Ho ricevuto un ricatto dal babbo di Matteo e dal parlamentare di Ala, ha fatto mettere a verbale Luigi Marroni. E in questa storia in cui la corruzione era elevata a politica d'impresa, per dirla con i magistrati, era proprio lui, Marroni, l'obiettivo di Romeo, che per aggiudicarsi gli appalti ricorreva al vecchio metodo della mattonella, come lo chiamava al telefono, ossia soldi contanti. Il 6 marzo toccherà a lui difendersi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alle reazioni politiche che naturalmente ci sono e sono forti su questo tema. Elisabetta Fiorito, ciao, buongiorno. Buongiorno, sì, l'inchiesta Consip sta diventando sempre più un caso politico. Il Movimento 5 Stelle va avanti sulla strada della mozione di sfiducia individuale contro Luca Lotti. Il ministro dello sport è considerato parte del massimo livello politico al quale l'imprenditore Alfredo Romeo chiedeva un sostegno per la concessione di appalti. E anche la Lega Nord si accoda al Movimento 5 Stelle per Matteo Salvini però non è contro la persona ma per andare al voto il prima possibile. I fittiani starebbero pensando al voto di sfiducia, mentre contrari è Forza Italia. Democratici e progressisti chiedono invece al premier Paolo Gentiloni di ritirare le deleghe a Lotti, una mossa che tutelerebbe il governo ma metterebbe il premier in difficoltà nei rapporti con Renzi. Anche nel PD si chiedono le dimissioni di Lotti, un passo di lato, dice Gianni Cuperlo. Emanuele Fiano contrattacca e dice che Cuperlo fa sciacallaggio. Ma è chiaro che l'area renziana è sempre più in difficoltà per il coinvolgimento del padre di Matteo Renzi, Tiziano, e per Luca Lotti del Giglio Magico, e questo ovviamente avrà anche un'influenza sulle primarie. A te Simone. Grazie dunque Elisabetta Fiorito anche per questi aggiornamenti. Veniamo ai dati nuovi diffusi oggi dall'Istat sull'andamento dell'economia. L'economia italiana cresce nel 2016, ma secondo l'Istat, nonostante la ripresa dell'ultimo biennio, il livello del prodotto interno lordo è ancora inferiore di oltre il 7% rispetto al picco pre-crisi di inizio 2008. Nel quarto trimestre dello scorso anno, certifica l'Istituto di Statistica nella revisione dei conti economici, il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua. Sale inoltre la competitività del sistema produttivo, spiega sempre l'Istat nel rapporto sull'azienda Italia. Ma con la lunga recessione abbiamo perso oltre 194.000 imprese in 4 anni fino al 2014 e quasi 800.000 addetti. La ripresa c'è, assicura il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva. La crescita del PIL nel 2016 è la più alta dal 2010 e l'industria manifatturiera è fuori dalla seconda recessione. Per il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, c'è ancora tanta strada da fare per tornare ai livelli di PIL del 2008. Il paese è in una fase di transizione, dice, ma non bisogna mollare, la situazione è ancora quasi emergenziale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Veniamo alla cronaca italiana, una nuova vittima della violenza del marito in Sardegna. Davanti agli agenti del commissariato di Iglesias e della squadra mobile di Cagliari ha confessato di aver ucciso la moglie a coltellate. È successo al termine di una lite legata alla gelosia dopo la separazione avvenuta a dicembre che lui non riusciva ad accettare. Per uccidere la moglie, Federica Madau, di 32 anni, Gianni Murro, di 46, ha utilizzato un coltello alla Rambo, come lui stesso lo ha definito, e ha colpito con tanta forza da rompere persino il manico dell'arma. Al momento del delitto in casa c'erano anche le 3 figlie della coppia. In passato la donna aveva già denunciato 2 volte il marito per percosse, ma Murru l'aveva querelata. E alcuni mesi fa, al culmine di un'altra furiosa lite, erano intervenute le forze dell'ordine per calmarli. La situazione era stata segnalata anche ai servizi sociali. Anche questo, dunque, come molti altri, un femminicidio annunciato. E allora, anche per questo, l'8 marzo, nella giornata della donna, si terrà uno sciopero globale delle donne, a cui hanno aderito 40 paesi del mondo, perché non sia una giornata puramente celebrativa, ma soprattutto di lotta vera per la dignità di tutte le donne contro la violenza e contro il sessismo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è cominciata l'udienza per l'esame della richiesta di rinvio a giudizio di Vincenzo Paduano, 27 anni, lo ricorderete, l'uomo che il 29 maggio dello scorso anno uccise la ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, studentessa di 22, dandole poi fuoco. Omicidio volontario premeditato, stalking, incendio, distruzione di cadaveri, reati contestati. Sentiamo la madre di Sara, Concetta, all'arrivo in aula. Iniziamo questo processo, la procura e la questura, insomma la squadra mobile sono stati bravissimi, io sono certa che otterrò giustizia per Sara, ne sono proprio certa. Il massimo della pena per Vincenzo? Sì, perché loro sono stati veramente eccellenti, hanno fatto un lavoro meraviglioso e sono certa che arriveremo. No? All'estero posso ricordare una citazione fatta circolare dai media secondo la quale tutto questo ricorda molto una caccia alle streghe. Sono le parole del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha commentato lo spazio che la stampa americana ha dedicato all'ambasciatore russo a Washington Sergei Kislyak, i cui contatti con Michael Flynn e Jeff Sessions prima dell'insediamento di Trump hanno costretto il primo a dimettersi da consigliere per la sicurezza nazionale e hanno fatto finire nella bufera il secondo, che adesso è attorney general. Di questo torneremo a parlare ovviamente in America 24 di Mario Platero. Occupiamoci adesso però di console per videogiochi, perché esce oggi la Nintendo Switch, molto attesa dagli appassionati. Enrico Pagliarini, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque, diciamo subito che questa è una nuova console che ha uno schermo touch da 6,2 pollici. È uno smartphone grande oppure un tablet piccolo, dipende. L'idea che sta alla base, perché questa è la novità della Nintendo Switch, è permettere di giocare sia in casa davanti al televisore sia in mobilità. Allora, come è fatta? Ha un display, il display è anche il corpo della console, ha agganciati sui fianchi due controller che sono i due telecomandi per giocare e, come dicevamo, la console si può usare sia in questa modalità, quindi anche in movimento, su un mezzo pubblico, in automobile, eccetera, eccetera. In automobile se non si guida, ovviamente. Oppure se si sta a casa, si sì, collega... Oppure se si ha un'auto che si guida, che guida da sola, insomma, naturalmente, ovvio. Esatto. Allora, se si sta a casa, si può collegare la Switch al televisore, i due controller si staccano e si possono utilizzare in remoto. Poi ci sono mille altre modalità, perché si possono collegare fino a 8 persone a giocare, si può comprare anche un controller aggiuntivo, insomma, però il principio base è questo. Posso giocare a casa con la console collegata al televisore oppure in mobilità con questi due controller. Ovviamente tutto questo si inserisce in una battaglia mondiale del videogioco. Recentemente molti ascoltatori forse lo sanno oppure lo immaginano, il mondo del videogame su smartphone, quindi in mobilità, soprattutto su smartphone, anche su tablet, ha superato il mondo delle console da gioco, e quindi la battaglia si svolge su due fronti. C'è chi è entusiasta, c'è chi è scettico, però devo dire Nintendo ci ha abituato a delle sorprese anche in passato, gente che diceva ma questa console non funziona. Poi faccio un esempio: se uno guarda lo schermo, è ovvio che lo schermo non è ovvio, però uno può immaginare la brillantezza di uno schermo di uno smartphone è maggiore, cioè è più bello sì. Lo schermo di uno smartphone. Probabilmente la Nintendo avranno detto ma chi se ne frega, perché se devi sparare a uno nel videogioco forse la brillantezza non è tutto. Dico solo due cose a proposito di guerra delle console. Allora, la prima è che oggi Sony ha risposto simbolicamente mettendo la PlayStation 4 Slim da 500 giga a 200 euro, quindi in offerta. Switch, ricordo che costa invece 329 euro, che non è pochissimo. Poi un'ultima nota a proposito di Nintendo, azienda giapponese storica del mondo del videogioco, e dell'attenzione che Nintendo pone soprattutto ai bambini, perché questa è una console rivolta anche al pubblico dei bambini. Allora, le cartucce, cioè che sono poi schedine SD che vanno inserite sì. A fianco della console dove sono caricati i videogiochi, sono state trattate con una speciale sostanza che è sgradevole al gusto, sì. Cioè proprio brutto, non piace. Per evitare che i bambini se la mangino. Perché sono molto piccoline le SD card, certo. Quindi hanno fatto questa... Insomma, sono i giapponesi sono maniaci e niente male come idea. Bella idea. Vedremo come andrà a finire questa vicenda appunto della Nintendo Switch e come andrà questa console. Noi facciamo così, invece di aspettare, come dire, il nostro il traffico per iniziare il nostro giro per l'Italia, vediamo se siamo in grado di parlare di sport e collegarci con il nostro Carlo Gento, o meglio ci sta raggiungendo in studio, si scambiano le cuffie con Enrico Pagliarini per cercare di fare un punto, diciamo, sulla giornata sportiva che ci aspetta domani e che inizia in realtà. Carlo, ti ho qua finalmente. Cambio volante con Enrico Pagliarini per parlare di questo fine settimana di campionato che in realtà vede già nella giornata di domani la partita più importante, la partita più importante è stata una settimana difficilissima, quella che abbiamo attraversato come Caronti, un fiume di veleni. Ebbene, domani si trovano di fronte le due grandi deluse della settimana, cioè Roma e Napoli, una partita estremamente importante in chiave di classifica e per mille altri motivi. Tra l'altro il Napoli dietro l'angolo, al Real Madrid. Si gioca per le solite ragioni di ordine pubblico domani pomeriggio alle 15 e quindi anticipo degli anticipi. E quindi vediamo, seconda contro terza, il Napoli non può più permettersi di perdere punti, la Roma ha perso il derby eppure e quindi è in una condizione in cui insomma perdere sarebbe difficile da digerire. Poi sempre domani alle 18 c'è Sampdoria-Pescara, domani alle 20:45 Milan-Chievo, con il Milan che continua la ricorsa verso l'Europa League in attesa di un closing che chissà mai se arriverà. Le altre partite della domenica alle 12:30 c'è Atalanta-Fiorentina, con l'Atalanta lanciatissima, Poi alle 15 Cagliari-Inter, Crotone-Sassuolo, Empoli-Genoa, Torino-Palermo, Bologna-Lazio, e chiude il programma sempre domenica alle 15 c'è Udinese-Juventus, dunque la Juventus che torna in campo da capolista, ovviamente, come dall'inizio della stagione, Simone. Allora Carlo, grazie. Innanzitutto noi ovviamente torneremo a parlare di questo alle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Giro per l'Italia che inizia da Milano per una storia che probabilmente dividerà e che racconta oggi il quotidiano La Repubblica. Vi do l'idea dal titolo: quella terapia non è sicura e il giudice vieta ai genitori di portare la figlia all'estero. Ne parleremo con il capo della procura per i minorenni, Ciro Cascone, che si è occupato della vicenda. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati delle fiamme nella baraccopoli di Rignano, nel Foggiano. Durante lo sgombero sono morti due immigrati del Mali, si ipotizza tra l'altro anche l'incendio doloso. Ci siamo occupati dell'inchiesta Consip, perché questo pomeriggio verrà sentito Tiziano Renzi, mentre l'inchiesta continua a far molto rumore dal punto di vista politico. Del PIL in crescita dello 0,2% nel quarto trimestre del 2016, dati di oggi dell'Istat. Abbiamo parlato della battaglia delle console, ci siamo occupati, come avete sentito alla fine, anche di calcio. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo da Milano per una vicenda, come già vi dicevo prima della viabilità, prima del traffico, che sta dividendo, che divide, perché il titolo è questo: quella terapia non è sicura, il giudice vieta ai genitori di portare la figlia all'estero. È una storia per certi versi dolorosa ed è la storia di una bambina la quale ha un tumore al cervello molto molto grave. Inizia un ciclo di chemioterapia all'Istituto per i Tumori di Milano e a questa chemioterapia pare rispondere piuttosto bene, ma i genitori decidono di fare dei consulti, anche per esempio con un medico israeliano, e decidono di portarla in Israele per fare una biopsia, per vedere se modificare queste cure. Che cosa succede? Succede che la questione finisce davanti ai giudici, perché l'Istituto per i Tumori dice no, questa cura sta funzionando e questa cura deve proseguire in questo modo, e il Tribunale per i Minori decide sostanzialmente che insomma, per così dire, non è in discussione la libertà di cura, e però il bene della bambina in sostanza che venga curata all'istituto. Ringrazio Ciro Cascone, che è il capo della procura per i minorenni, per essere con noi. Dottor Cascone, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, è stata una decisione, immagino, piuttosto difficile, perché come dire, contemperare le due esigenze, no? La volontà dei genitori di dare la cura che scelgono loro per la bambina e quello che è il bene della minore è piuttosto complicato, soprattutto in situazioni di questo genere. Sicuramente. Chiaramente il dato di partenza, come lei ha già evidenziato, è stata la segnalazione dell'ospedale, della struttura curante in quel momento della bambina, che sostanzialmente ha rappresentato come dire, l'anomalia non tanto di interrompere una terapia in atto e che stava dando al momento dei risultati efficaci, quanto piuttosto quello di inoltrarsi su un sentiero abbastanza incerto, ossia intraprendere una terapia alternativa che però in quel momento appariva non particolarmente chiara e soprattutto non rientrante in un protocollo scientifico validato a livello internazionale. Perché su questo fronte l'Istituto per i Tumori ha chiesto a questo medico israeliano al quale si sono rivolti i genitori, ci dica i dettagli, cioè ci dia qualche indicazione su quello che contiene questa terapia, e lo stesso Istituto per i Tumori non l'ha giudicati bastanti, no, questi dettagli. Esatto, da quello che ci è stato documentato, quindi, e che è emesso, è che l'Istituto dei Tumori ha cercato un contatto via mail con questa struttura, con questo medico, come con altri medici con i quali i genitori si erano consultati, però non ha ricevuto risposte sufficienti, ha ricevuto anzi delle risposte a volte evasive, con dei profili ma sui quali non mi esprimo, ma anche che destano perplessità con riferimento, come dire, all'etica e deontologia di questo di questo professionista. Quindi sì. Questo, a questo punto non dava garanzie sull'indirizzo terapeutico che veniva seguito. E qual è stata, glielo chiedo procuratore, qual è stata la reazione dei genitori di fronte a questa decisione? Ma devo dire, i genitori sono stati ascoltati sia in procura sia dal tribunale, hanno spiegato, hanno rappresentato quella che era la loro intenzione. Premessa, i genitori si muovono, si sono mossi sempre in perfetta buona fede, in perfetta trasparenza anche delle loro scelte, avvisando la struttura curante, quindi l'istituto dei tumori, di quello che intendevano fare. Chiaramente sono anche genitori umanamente comprensibili, provati da una sofferenza e da un dolore non facilmente sopportabile, quindi la loro intenzione è quella di trovare cure valide per la loro figlia. Allora, no, sì, prego, prego procuratore. No, no, giusto per chiudere su questo, è stato già detto, lei lo ha sottolineato, effettivamente qua non è assolutamente in discussione la libertà di cura di ciascuna persona e di ciascun genitore per quanto riguarda i propri figli. Quella che è emersa chiaramente a noi, che ci ha spinto come procura a chiedere, a fare un ricorso urgente al tribunale, era, come dire, il rischio che questi genitori a un certo punto fossero anche poco consapevoli delle scelte terapeutiche che stavano per il rischio, la dico brutalmente io, il rischio è che fossero sottoposti ad una sorta di truffa, diciamo così, no? Io non mi azzardo a dire questo, però sicuramente era una terapia meno valida di quella che finora veniva praticata alla bambina e che stava funzionando. Procuratore Cascone, l'abbiamo chiamata anche perché nel contattarla per raccontarci questa vicenda lei ci ha detto che c'è un problema in questo momento che riguarda i tribunali e le procure per i minori. Ci può dare qualche dettaglio in più, in generale? Sì, ma sì, sostanzialmente in discussione in Parlamento è stato già approvato dalla Camera l'anno scorso un disegno di legge di riforma del processo civile e in quest'ambito si interviene anche sulla giustizia minorile. Facendo che cosa? Per ragioni forse di risparmi di spesa, non lo so, vengono soppressi i tribunali per i minorenni, le procure, le relative procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, che vengono accorpate ai tribunali ordinari. Riteniamo che sia una scelta, come dire, non poco valida da un punto di vista del mantenimento di una qualità del servizio, se non altro perché si andrà a perdere la specializzazione. E su questo state firmando un appello, Cascone, mi sembra di aver capito. Sì, so che in queste ore proprio c'è un appello che viene firmato da varie personalità del mondo della cultura italiana, quindi non siamo noi magistrati che chiediamo, ma c'è tutto un mondo culturale che si sta movimentando in difesa della giustizia minorile, attenzione, non dei tribunali per i minorenni. In questa direzione. Senta, procuratore, un'ultima domanda che le voglio fare, che in realtà mi arriva come sollecitazione da un'ascoltatrice che ci scrive via WhatsApp. Dice: se la cura che il tribunale... qua viene messo a scelto tra virgolette, scrive l'ascoltatrice, no? Non ha scelto la cura, attenzione. Chiaramente se questa cura non dovesse avere successo, quella dell'istituto dei tumori, chi risponde per la scelta? No, attenzione, chiariamo, il tribunale non sceglie, sono i genitori che scelgono. Il tribunale ha soltanto, come dire, sta facendo una consulenza per vederci meglio da un punto di vista tecnico-scientifico, quella che può essere la soluzione migliore. L'unica decisione che il tribunale ha preso nell'immediato è stata quella di vietare l'espatrio della bambina. Ecco tutto. Il tribunale quindi non ha scelto, ma ha impedito che si facesse una scelta al buio, perché questo stava avvenendo. La ringrazio, grazie a Ciro Cascone, capo della Procura dei Minori di Milano, e noi continuiamo ad occuparci di minori. Il nostro giro per l'Italia ci porta adesso in Campania, a Torre Annunziata. La vicenda risale ad ormai una ventina di anni fa, ma adesso è arrivata ad una sua conclusione giudiziaria, ad una conclusione giudiziaria importante. La vicenda riguarda un gruppo di bambini, di bambini che all'epoca avevano tra i 6 e i 7 anni, che negli scantinati della scuola elementare di Torre Annunziata vennero abusati, seviziati e filmati. Tra questi c'era un bambino che adesso è un uomo di 30 anni, che chiameremo Salvatore, e ieri di fatto il Ministero per l'Istruzione è stato condannato a risarcirlo con 800.000 euro. Elena Coccia è l'avvocato di quest'uomo. Buongiorno avvocato, benvenuta. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, ho ricostruito per sommi capi la vicenda, per così dire. Innanzitutto è una vicenda lunghissima in termini di tempi e anche di tempi giudiziari, no? Beh sì, anche se l'appello civile è durato solo 2 anni, che insomma sono tempi abbastanza normali, ecco, questo per l'approfondimento sì. Eccetera. Certo, sì. La vicenda comincia, guarda caso, proprio col procuratore che ha sentito prima, Ciro Cascone, per uno strano gioco nel 1995-96, quando alcuni bambini della scuola cosiddetta di Poverelli vennero, appunto, come ha detto lei, abusati per poterli filmare e probabilmente per poter vendere poi, diciamo, l'oggetto dei loro film. Sì. Ci fu un processo, il processo finì con la condanna di 15 persone, una condanna anche molto dura, 15 anni, fino in Cassazione, e il giorno in cui vi fu la sentenza di Cassazione, la mamma di uno di questi ragazzi, appunto la mamma di Salvatore, Matilde Sorrentina, venne uccisa. Venne uccisa da persone collegate alla vicenda? Sì, venne uccisa, no, da una persona il cui collegamento alla vicenda non fu mai indagato fino realmente, in fondo. Perché come ricorderà sicuramente, sì, il procuratore Cascone, intanto la procura di Torre Annunziata era stata letteralmente decapitata, quindi nessuno ricordava più la storia precedente. Sì. Ma Matilde venne uccisa, sparata in bocca in casa sua. E Salvatore fu testimone di giustizia, perché mentre, avendo sentito gli spari, correva per le scale da sua madre, vede in faccia il killer che si allontanava. Sì. Naturalmente al coraggio di Matilde dobbiamo aggiungere il coraggio di Salvatore, che disse alla polizia intervenuta immediatamente di aver riconosciuto il killer. E quindi ci fu un altro processo che finì in Cassazione, ha condannato, sì, la persona, il killer, all'ergastolo. All'ergastolo. Allora, avvocato, abbiamo pochi minuti. Il risarcimento, sì, è arrivato per Salvatore, 800.000 euro. Lui è stato costretto a lasciare. In realtà sono 500.000. 500.000. 800.000 è il conteggio che è stato fatto un po' dal giornale, anche in riferimento a quelli che possono essere gli interessi. In realtà, sì, sono 500.000. Sono 500.000 euro. Le persone, i bambini coinvolti a questa vicenda, quanti furono? I bambini all'epoca furono 6. Sei bambini. L'istanza, la procedura è stata fatta esclusivamente a Salvatore, ed è stata fatta non solo perché Salvatore probabilmente sicuramente ha ricevuto il maggior danno anche con l'uccisione della mamma, sì, ma anche perché noi siamo stati molto caparbi, io sono stata, sì, molto caparbia, nel senso che avendo cominciato a seguire questa storia fin dal 95-96 l'ho poi portata avanti anche quando il ministero decise di non rimborsare più neanche il viaggio che io facevo per andarli a trovare. Brevemente, avvocato Coccia, a suo giudizio il ministero ricorrerà in Cassazione oppure no? Beh, io credo che io penso che per una questione davvero di giustizia, non soltanto giustizia giudiziaria, sì, ma anche giustizia umana, il ministero non dovrebbe ricorrere in Cassazione. Vedremo. Se poi lo farà, Se poi lo farà... Andrete in Cassazione, evidentemente. Evidentemente. La ringrazio. Grazie Elena Coccia, avvocato di Salvatore, per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Poi, nella seconda parte della trasmissione, andremo a questo allarme morbillo in Toscana, in Piemonte e poi, come ogni giorno, un sindaco dai comuni terremotati. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli: le fiamme nella baraccopoli di Rignano nel Foggiano durante lo sgombero dei migranti, morti due uomini del Mali, si ipotizza anche l'incendio doloso. L'inchiesta Consip, questo pomeriggio verrà sentito Tiziano Renzi, questa mattina tocca a Russo, si è parlato di un rinvio delle primarie, interviene il segretario del PD Renzi che dice nessun alibi per rinvio primarie il 30 di aprile. PIL in crescita dello 0,2% nel quarto trimestre del 2016, crolla l'agricoltura, sale la competitività, dice l'Istat, ma si sono perse 200.000 imprese tra 2010 e 2014. Si riaccende la battaglia delle console da videogiochi, oggi arriva nei negozi Nintendo Switch. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro per l'Italia ci porta a Torino e poi in Toscana per parlare sostanzialmente dello stesso argomento, ossia il fatto che sta tornando il morbillo. Situazione particolarmente preoccupante, ci sembra di capire, a Torino, in Piemonte, dove il numero dei casi è letteralmente decuplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Siamo in linea con Vittorio De Micheli, che è epidemiologo della Direzione Sanitaria Regionale Piemontese. De Micheli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, i dati sono preoccupanti, certo sono 150 casi, non sono mille, però insomma l'anno scorso erano 16 in questo stesso periodo dell'anno, dall'inizio dell'anno. No, non sono i numeri che preoccupano, è il fatto che purtroppo ormai da alcuni anni nella nostra regione e anche in altre regioni d'Italia continuano a verificarsi delle epidemie di morbillo, quindi i numeri per fortuna non sono preoccupanti. Ma non essendo riusciti in passato a vaccinare tutti i bambini che avremmo dovuto, adesso a distanza di tempo ci si ripropongono delle epidemie che qualche volta hanno anche complicazioni e conseguenze gravi. Oh, lo vogliamo ricordare, De Micheli, perché a volte si tende ad interpretare il morbillo come una malattia esantematica da bambini che non hanno nessun effetto. Di morbillo si muore. Purtroppo è un tratto quasi della nostra cultura, addirittura usiamo un diminutivo, lo chiamiamo morbillo invece che, no? Quindi ahimè è un tratto della nostra cultura considerarlo quello come una malattia minore. In realtà è una malattia grave che semina ancora morte nei paesi poveri e che anche nelle nostre regioni, quando arriva in età più avanzata, porta complicazioni e anche un tasso di mortalità significativa. Quindi è purtroppo una delle vere emergenze attuali non essere riusciti a debellare la malattia 20 anni fa, quando si partì con la vaccinazione di massa. Adesso ci restituisce questo, che è un problema piuttosto serio. Grazie De Micheli e saluto Maria Grazia Santini, che è responsabile servizio igiene e prevenzione della ASL Toscana Centro, perché qua il morbillo è arrivato in ospedale al Torre Galli. Buongiorno Santini. Sì, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo il secondo caso, no? Sì. Sì, diciamo che è un caso purtroppo che si verifica in un operatore sanitario, ma come ha detto il collega precedentemente, questo purtroppo è il frutto del fatto che non siamo riusciti ad ottenere delle coperture vaccinali buone, cioè intorno al 95% per i bambini. Questo fa sì che il virus continui a circolare e negli anni si accumulano i soggetti che non sono protetti e poi appunto vengono fuori queste epidemie che coinvolgono sempre di più i soggetti, sì, giovani adulti, che per l'appunto sono nella fascia lavorativa e quindi possono essere anche operatori sanitari. Quante persone, brevemente Santini, mi scusi, dal punto di vista della cronaca, quante persone state tenendo sotto osservazione? Ma senta, purtroppo i contatti stretti sono tantissimi, anche di quest'ultimo caso stiamo facendo il censimento, ma per ogni caso sono più di 50 le persone che abbiamo tenuto sotto deglianza. Approfittiamo per cercare di promuovere attivamente la vaccinazione a coloro che non sono vaccinati, perché anche se uno è stato esposto e si riesce a fare la vaccinazione in un tempo subito molto breve, 48-72 ore, se siamo fortunati appunto si riesce ad impedire che poi questo generi ulteriori casi, quindi si riesce a interrompere l'epidemia. La ringrazio. Il fatto che il morbillo, buongiorno. La ringrazio. Grazie Maria Grazia Santini, responsabile servizio di igiene e prevenzione della ASL Toscana Centro. E a chiudere il nostro viaggio tra i comuni colpiti dal terremoto, siamo stati in Umbria, siamo stati nelle Marche, siamo stati in Abruzzo, adesso andiamo nel Lazio, in provincia di Rieti, ad Accumoli, letteralmente raso al suolo dal sisma. Stefano Petrucci è il sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, come vanno le cose? Adesso diciamo con il tempo che è migliorato stiamo procedendo un po' più speditamente su alcune attività, ossia quella della realizzazione delle urbanizzazioni per gli 11 villaggi che dovranno ricollocare poi le persone sul territorio, e per le aree commerciali stiamo iniziando a anche lì a iniziare questi lavori di urbanizzazione. Per quanto riguarda lo sgombero delle macerie, purtroppo siamo in una situazione di stallo, perché i vigili del fuoco non faranno più questa operazione. Nel frattempo che stanno terminando questo tipo di attività, hanno ridotto le squadre a una sola squadra. Quindi le attività stanno procedendo molto a rilento. Molto a rilento. Sindaco, a proposito di questo, a proposito della lentezza, molti suoi colleghi hanno denunciato una serie di problemi burocratici e proprio il fatto che i provvedimenti che sono stati fatti d'urgenza per il terremoto sono strutturati male, realizzati male, studiati male, in maniera che non vi consentono di agire con la rapidità necessaria. Il discorso dello snellimento delle procedure noi l'abbiamo chiesto già a gran voce da molto tempo, non ultimo l'audizione che abbiamo avuto alla Camera dei Deputati la scorsa settimana. Speriamo che queste richieste vengano accolte a breve nella conversione in legge dell'ultimo decreto, anche perché noi abbiamo affrontato già tutta la parte delle lungaggini nell'espletamento delle gare che la Regione ha dovuto effettuare con la normativa ordinaria. Auguriamoci adesso che, come si è snellita la procedura di gara per le urbanizzazioni delle SAE, si proceda anche allo snellimento delle altre attività che dobbiamo proseguire in questi tempi. Quindi mi auguro che le richieste vengano accolte, perché altrimenti ci sarà lo stallo più totale. Dal punto di vista della realizzazione dei villaggi, no, dei quali ci diceva, sono in corso, ci diceva, le opere di urbanizzazione, il che vuol dire realizzare quel che precede, no? La realizzazione di questi villaggi, per poi metterli. Che tempi vi state dando? Contate per l'autunno prossimo di aver realizzato queste abitazioni provvisorie? Ma dai contratti sottoscritti con le imprese e il soggetto attuatore che è la Regione abbiamo visto che più brevi. Abbiamo la consegna dal 25 di marzo al 30 di maggio, a seconda di quando sono stati appaltati i lavori. Quindi io mi auguro che per fine dell'anno scolastico tornare su con gran parte della popolazione. Una tempistica questa, mi auguro che non ci siano ritardi. Allora, sindaco Stefano Petrucci, sindaco di Accumoli, io la ringrazio per essere stato con noi e naturalmente a questo punto, visto che abbiamo dei tempi anche così precisi che ci ha dato lei, dal 25 marzo a maggio sostanzialmente, ci riserviamo di tornare a chiamarla per capire come vanno le cose. Grazie intanto e buona giornata. Bene. Grazie altrettanto. Andiamo al traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.